Siccome sono 2 settimane, dopo c'è tutto il tema di andare a riverificare i dati da parte del governo, del CTS, e solitamente è il venerdì che guardano che cambiano le eventuali zone. Quindi io mi aspetto la prossima settimana, poi non so dirvi quale giorno, ma non saranno 4-5 giorni in più o in meno che fanno la differenza. Anzi, sinceramente, uscirei da questa frenesia di dover sapere qual è il giorno in cui si torna eventualmente gialli. La cosa positiva è che dopo essere diventati zona arancione, non ci sia rischio di zona rossa, ma addirittura si riparli di tornare così presto zona gialla. Vuol dire che abbiamo fatto bene a ulteriormente stringere noi con quell'ordinanza di poche ore prima dell'andare in zona arancione. Avete visto che io non ho fatto polemiche, perché poi alla fine quello che conta è dare un messaggio unico ai cittadini. Quindi il fatto che si parli di ritorno in zona gialla e che l'R con T sia sceso da oltre 1,6 di qualche settimana fa a poco più dell'1 oggi, per noi come per il Friuli Venezia Giulia, che con noi ci ha accompagnato in queste settimane con le misure, credo sia la cosa positiva. Non è terminata la pandemia, purtroppo abbiamo in alcune province ancora numeri alti, e quindi il fatto che la curva si corregga al ribasso è solo positivo, perché a noi interessa tutelare al massimo la salute dei cittadini. Da questo punto di vista, visto che la curva migliora, oggi uscirà un'ordinanza. Abbiamo fatto un passaggio ieri, hanno fatto i miei assessori e il sottosegretario con le associazioni economiche e con i sindaci dei comuni capoluoghi e i presidenti di provincia, perché noi siamo abituati così. Le cose che facciamo le vogliamo condividere al massimo con gli amministratori locali e le forze sociali. Credo che già alcune misure, a partire dall'apertura dei negozi domenica, possa avvenire, però non voglio, come dire, anticipare nulla rispetto alle misure che stiamo scrivendo e che usciranno entro il pomeriggio, immagino, quindi le vedrete. Però qualche ampliamento rispetto alla nostra ordinanza che restringe ulteriormente quelle del governo, visto che le cose migliorano, ci sarà. E poi mi aspetto, ecco, che la prossima settimana, all'inizio, alla fine, non lo so, se davvero i numeri si confermeranno, si possa tornare addirittura zona gialla.